in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Diamo conto dei titoli e anche di qualche approfondimento che potete trovare nei giornali in edicola questa mattina. In linea generale possiamo dire che tiene ancora banco l'assoluzione di Berlusconi, l'assoluzione avvenuta venerdì di Berlusconi per il processo Ruby, ma prende quota in qualche modo oggi nei giornali anche la politica estera, con i due eventi che soprattutto si staccano su tutti quanti: l'abbattimento naturalmente del volo della Malaysia Airlines in Ucraina, con anche atti di sciacallaggio che sono stati perpetrati a danno dei bagagli e delle cose che comunque risultavano ancora integre dall'abbattimento dell'aereo, e poi la vicenda che sta avvenendo in Iraq e naturalmente quanto sta succedendo in Palestina e nella striscia di Gaza. Avete sentito nel corso dei giornali radio che la situazione è peggiorata, l'offensiva di terra, la caccia in qualche modo nei tunnel da parte dell'esercito israeliano ha portato anche delle vittime da parte dei soldati israeliani, prosegue intanto anche continua ad aumentare il conto delle vittime anche dalla parte opposta. Voglio però cominciare da Avvenire questa mattina per un evento, una circostanza che trova di solito poco spazio sulle prime pagine. Oggi invece questo accade, mi sembra giusto sottolinearlo. Mosul, quindi andiamo in tutt'altra area, sempre area calda e medio orientale, andiamo in Iraq. L'ultimatum dell'ISIS, sapete, questa sorta di stato parallelo dell'ISIS che sta imponendo il fondamentalismo islamico nella parte nord dell'Iraq, è scaduto l'ultimatum dell'ISIS nella seconda città irachena, il Papa è preoccupato e l'intera comunità cristiana è a rischio nel paese asiatico. Mosul scristianizzata è la legge del califfato, così scrive Avvenire nel suo titolo più importante questa mattina in prima pagina. Rogo del vescovado, depredati gli ultimi profughi. Che sta succedendo a Mosul? A Mosul è stato dato questo ultimatum ai cristiani ancora residenti lì, la città è nelle mani, appunto, è nel possesso dell'ISIS, di questa sorta di stato islamico parallelo, e ai cristiani è stato imposto praticamente di convertirsi o di pagare una pesante tassa oppure di espatriare. Spiega Avvenire nella pagina affidata a Luca Geronico e Gianni Cardinale. Che i miliziani del califfato hanno preso d'assalto il sito dei sirocattolici, hanno bruciato i manoscritti, la biblioteca, sono state derubate di tutto, insultate le ultime famiglie che venerdì hanno lasciato la città, che mai era stata abbandonata in passato dalla minoranza. E tra l'altro avete forse potuto vedere nei giornali di questi giorni questo segno particolare che è stato fatto sulle case abitate dai cristiani, questa N tracciata naturalmente in caratteri arabi, e spiega Avvenire appunto l'iniziale di Nazara, che sta per cristiani, è stata dipinta sulla facciata delle case che ormai però sono tutte disabitate. I miliziani così hanno marchiato le dimore della comunità cristiana. E la stessa vicenda viene raccontata, oltre che in prima pagina, da Avvenire, che poi dedica anche la sua prima pagina a un altro evento di politica estera, cioè il jet abbattuto in Ucraina. Dicevo, la vicenda di Mosul è raccontata anche dalla Stampa. Pagate o morite, i cristiani di Mosul in fuga dal califfo, tassa sugli infedeli, scade l'ultimatum di al-Baghdadi. E appunto c'è stato questo ultimatum, è stato dato tempo fino a mezzogiorno di sabato di ieri per andare via, appunto, oppure per naturalmente abbracciare la fede musulmana. Ci aiuta anche con una cartina la Stampa di oggi, segnalandoci che i cristiani rimasti in Iraq sono circa 300.000 nel 2003, 11 anni fa erano 1.200.000 persone. Si pensa che a Mosul ci fossero ancora due anni fa 50.000 cristiani e oggi sono circa 5.000, o forse già dovremmo dire erano. Intanto prosegue l'offensiva di questo califfato, ci segnala sempre la Stampa che c'è stata un'offensiva anche nella confinante Siria, ieri sono state conquistate le campagne attorno ad Aleppo e anche un giacimento di gas, quello di al-Shaera est di Palmira, e ci sono sarebbero stati uccisi, secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti dell'Uomo, 270 tra soldati e tecnici. Questa è una delle vicende di politica estera che in qualche modo sono lontane geograficamente da noi, ma invece drammaticamente vicine per quanto riguarda lo scontro appunto tra il fondamentalismo islamico e le aree invece non sono sotto il controllo di questi stati. Torniamo ad Avvenire per la vicenda ucraina. Mosca e Filorussi occultano le prove sul jet abbattuto, questo dicono le autorità ucraine. I separatisti filorussi, appunto, accusati, lo ricordate, dal presidente Obama di aver lanciato il missile che ha abbattuto il jet provocando 298 vittime, stanno distruggendo, sempre secondo gli ucraini, anche le prove dell'abbattimento. E l'OSCE denuncia di avere un accesso limitato al luogo dello schianto. L'intesa poi su un possibile cordone di sicurezza, appunto, per consentire anche ai parenti delle stesse vittime di recarsi sul posto, è però minacciata dai continui combattimenti. Anche la Gran Bretagna ha parole dure nei confronti di Putin e della Russia e dice Mosca non sta collaborando all'inchiesta. Questo dall'Avvenire di questa mattina. Vi abbiamo dato conto di due degli eventi internazionali più importanti. Per quanto riguarda invece casa nostra, tornando in casa nostra, vi sono diverse interviste, diverse dichiarazioni di tipo politico che naturalmente in qualche modo preparano alla settimana che si aprirà domani, soprattutto dopo l'assoluzione di Berlusconi, e quindi cosa sta succedendo negli schieramenti dell'una e dell'altra parte delle varie parti politiche. E comincerei dandovi segnalazione del titolo principale del Corriere della Sera: Berlusconi che annuncia cambio il partito. L'ex cavaliere apre alle primarie, riferisce il Corriere della Sera questa mattina. E poi c'è stato un attacco politico del pubblico ministero Di Matteo, che ha parlato di CSM condizionato dal clima politico e dalla presidenza della Repubblica, dal Consiglio Superiore della Magistratura, condizionato che condiziona l'azione della giustizia. La grazia non è un tema, queste sono le parole attribuite a Berlusconi dal Corriere della Sera. E poi Renzi, che appunto lo avete sentito anche nel corso del giornale radio, ha detto le riforme si fanno comunque con Forza Italia, sarebbero andate avanti anche se Berlusconi fosse stato condannato. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo: arretrati alle imprese, 2 mesi di tempo per pagare 31 miliardi. C'è una frizione abbastanza evidente tra le richieste italiane di una maggiore flessibilità, di un uso, diciamo, della flessibilità in chiave di aiuto alla ripresa, e quelle che sono le prese di posizione che qua e là emergono dalle varie autorità comunitarie, da vari personaggi appunto di Bruxelles o interni alla BCE, e che invece sembrano voler tenere il punto soprattutto sul nostro debito, sul rispetto necessario del rientro dal debito. Torniamo a Berlusconi, la chiacchierata, in qualche modo il racconto della giornata di ieri di Berlusconi occupa le pagine 2 e 3 in modo molto ampio sul Corriere della Sera di questa mattina. Berlusconi archivia la grazia e cambia il partito. Il Senato non si riforma in 15 giorni. Il leader parla di ricomposizione dei moderati e dice di Renzi è un fuoriclasse, ma come comunicatore. Tommaso Labate riferisce appunto della giornata ieri di Berlusconi. La sentenza si legge come frase attribuita proprio all'ex cavaliere: è stato un messaggio importante per il destino del centrodestra, anzi può addirittura favorire la ricomposizione delle forze di centrodestra. Sul tema appunto della ricomposizione tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra torneremo, perché anche Angelino Alfano al Messaggero questa mattina sembra lanciare dei segnali in questa direzione. Intanto, per quanto riguarda invece il clima interno a Forza Italia, quindi torniamo proprio in casa del partito di Berlusconi, il Corriere della Sera ci segnala che Il leader vedrà Fitto, il suo, come dire, oppositore interno, dopodomani, cioè martedì, noi due soli, viene precisato tra le virgolette. In agenda ci sono le primarie a dicembre e poi la nuova sede per lanciare un partito più leggero. Allora, cosa potrebbe essere, quale potrebbe essere il futuro di Forza Italia? Un partito in cui probabilmente il capo terrà per sé i galloni del padre nobile, un partito in cui la classe dirigente sarà selezionata durante un percorso che culminerà con le primarie che dovrebbero essere messe in programma nel mese di dicembre. Sapete che il Forza Italia si era sempre mostrata abbastanza ostile alle primarie, salvo qualche presa di posizione poi di qualche suo esponente interno. Sempre da queste pagine Corriere della Sera vi riferivo appunto di questo possibile riavvicinamento, nuovo centrodestra, la formazione di Alfano con Forza Italia, e leggiamo che Toti tende la mano nuovo centrodestra, la riunificazione è più vicina. Il consigliere politico dell'ex cavaliere dice: io parlo con loro, parlo con loro come parlo con gli amici di Lega e Fratelli d'Italia. Il nodo della riforma della giustizia, dice Toti, beh, il problema adesso sono le proposte del governo. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa, ancora una buona domenica da Mauro Meazza, grazie a Peter Bescapè che dalla regia rende possibile tutto questo. Allora, stavamo parlando di politica perché vi stavamo riferendo appunto di queste dichiarazioni di Berlusconi oggi sul Corriere della Sera, dichiarazioni che tra le altre cose, oltre ad annunciare appunto le primarie per Forza Italia, una sorta di rivoluzione interna al partito, soprattutto si segnalano in questo momento per un possibile riavvicinamento tra il nuovo centrodestra e Forza Italia. Ora, il fatto che appunto la circostanza che il nuovo centrodestra sia nella maggioranza di governo e Forza Italia no, è evidente che può avere più di un riflesso sulla evoluzione della nostra situazione politica e anche sulla difficile trattativa, sul difficile percorso delle riforme. Allora, dal Corriere della Sera andiamo al Messaggero, dove il titolo principale è proprio occupato da un'intervista ad Angelino Alfano. Anche Berlusconi nel nuovo PPE, il nuovo Partito Popolare Europeo, il vecchio centrodestra è finito, dice Alfano. Silvio dica se sceglie noi o gli estremisti. E poi Renzi, che appunto ha detto ieri: le riforme con Forza Italia si sarebbero fatte anche se il leader fosse stato condannato, e torna ad attaccare Grillo. Il Movimento 5 Stelle in qualche modo continua in questa fase di apertura e poi chiusura nella trattativa sulle riforme istituzionali. Vi do qualche segnalazione dalla intervista ad Angelino Alfano. Dice: questa condizione per tornare insieme, si intende tra Nuovo Centrodestra e Forza Italia, è che Berlusconi faccia un passo indietro, di lato o in alto come padre nobile del centrodestra, e quindi lasci ad altri la leadership. E Alfano risponde: non si tratta né di passi avanti né indietro. A causa dei drammatici errori dello scorso autunno, Berlusconi non ha più né la Forza Italia del 30% né il PDL del 38%. È cambiato tutto, bisogna organizzarsi per i tempi nuovi. Per noi la questione politica è se Forza Italia vuole partecipare alla grande alleanza popolare, cioè costruire il Partito Popolare Europeo anche in Italia, con noi di Nuovo Centrodestra, con l'UDC e tanti altri moderati pronti a farlo, o se invece vuole strizzare l'occhio alla destra estrema, razzista, antieuropea e avversaria del PPE a livello continentale e italiano. Chiede Mario Aiello: ma quindi chiedete un atto di generosità, passo indietro, quindi sembrerebbe incalzare a Berlusconi? No, non gli chiediamo nessun atto di generosità, chiediamo una linea politica compatibile con la nostra. E per il futuro, e qui in un inciso precisa, sto parlando delle elezioni politiche del 2018, quindi non sono alle viste, almeno secondo l'intenzione di Alfano, elezioni politiche anticipate. Diciamo che serve un'individuazione democratica della leadership della coalizione. Noi la nostra strada l'abbiamo già tracciata ed è quella di essere protagonisti dei prossimi 1000 giorni di governo. Questa è la posizione di Alfano, ma ci sono diversi interventi di politici, come vi dicevo, sui giornali di questa mattina. Ad esempio La stampa dedica il suo titolo principale al ministro Boschi, Maria Elena Boschi, che dice, appunto, è finito il tempo per trattare. Non c'è più spazio per le trattative, parla con la stampa delle riforme e inizia proprio dicendo, con una domanda, se questa sarà la settimana, quella voglio dire che si apre domani, sarà la settimana clou o, per dirla con Alessandro Milan, che è più abituato, attualmente occupa questo spazio, sarà la settimana decisiva. Le chiede Carlo Bertini, ministro Boschi, come si prepara alla settimana clou della sua carriera? Non è in ballo la mia carriera, risponde il ministro, la riforma, ma la riforma della politica che vale molto di più della mia carriera. E allora parliamo di ferie, perché viene chiesto al ministro, ma allora manderete le camere in ferie a Ferragosto? Quindi il sottinteso è, avremo finito quindi con le riforme, sarà veramente il momento decisivo. Speriamo di chiudere le votazioni sulla riforma del Senato qualche giorno prima del 10 agosto. Poi, come governo, credo faremo una settimana di pausa a Ferragosto. Nel dubbio, però, dice il ministro, non ho ancora prenotato nulla. Sull'immunità, immunità ai nuovi senatori, cosa intendete fare? Chiede Carlo Bertini. Toglierla, risponde il ministro Boschi, lasciando solo l'insindacabilità sulle opinioni espresse dai senatori, era la nostra soluzione del testo base del governo. Poi abbiamo ritenuto fosse un argomento ragionevole la tesi di costituzionalisti e gruppi parlamentari secondo cui il Senato, anche se con potere ridotto, debba per forza avere lo stesso tipo di garanzie che hanno i deputati. Ma se quindi in sostanza resta l'immunità per i senatori. Ma se vogliamo cambiare, bisogna che ci sia nei gruppi la volontà di farlo. E naturalmente sulla questione dell'immunità subito si crea un momento di tensione, di distacco con il Movimento 5 Stelle. Nella stessa pagina, più sotto, sempre la stessa pagina che occupa l'intervista al ministro Boschi, l'ultimatum dei 5 Stelle, via l'immunità. O addio dialogo. Quindi questa settimana che si apre domani sarà anche decisiva, ma rischia di essere l'ennesima settimana decisiva nel conteggio, come sapete, di Alessandro Milan, che ogni lunedì più o meno ci aggiorna su questo contatore. Veniamo a tutt'altri argomenti, lasciando la politica e prendendo dal Sole 24 Ore l'annuncio della partenza della spending review, cioè la famosa revisione della spesa pubblica improduttiva, con tagli a partecipate e acquisti. Questo è il titolo principale, il nostro titolo principale questa mattina in edicola. Ora l'importanza della spending review è perché, oltre a disboscare la spesa pubblica improduttiva, quindi diciamo non utile, però tra l'altro deve poterci garantire che ci sarà una diminuzione della pressione fiscale, delle tasse chieste alla generalità dei cittadini, o quantomeno non ci saranno aumenti di questa imposizione. Proprio in materia fiscale, il secondo titolo sul Sole 24 Ore di oggi, Fisco cambia la lotta all'evasione, e qui appunto nelle pagine interne Marco Bellinazzo insieme a Gianni Trovati e a Davide Rotondo ci aggiornano sui vari strumenti di contrasto all'evasione, alcuni dei quali sembrano decisamente aver perso smalto. Redditometro, ad esempio, per il redditometro si spiega che ci sono degli accertamenti in corso ma spuntati, lo abbiamo raccontato in queste settimane sul Sole 24 Ore, specialmente le condizioni poste dal garante della privacy hanno ridotto parecchio l'impatto del meccanismo appunto di accertamento dei redditi, della congruità, della correttezza delle spese sostenute rispetto ai redditi dichiarati al fisco, e quindi il numero proprio di accertamenti tramite redditometro si è ridotto. Trovate poi i dettagli nella pagina 3 di oggi. Un altro strumento da cui ci si attendeva in qualche modo un contrasto nella stessa direzione era il cosiddetto riccometro, così battezzato per semplicità. Il suo nome completo è ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. Lì è stata avviata una riforma, appunto con lo stesso motivo, vedere se c'è una correttezza, una conformità tra quello che dichiariamo al fisco e poi lo stile di vita che produciamo, o ad esempio gli sconti a cui chiediamo di aderire in termini, che so, di tasse scolastiche, di tasse universitarie o di altri servizi erogati dagli enti pubblici. Ebbene, però questo riccometro ci segnala sempre il Sole 24 Ore, Ancora da applicare, i provvedimenti attuativi non sono ancora andati in porto. A questo punto il filone che viene considerato più promettente per contrasto all'evasione, leggo dal Sole 24 Ore di questa mattina, è quello della tracciabilità dei pagamenti e delle fatture. Quindi c'è sostanzialmente un ricorso sempre più ai pagamenti tracciabili e alle operazioni IVA tracciabili. Questo sul Sole 24 Ore di oggi, dove tra l'altro compare poi qualche pagina più avanti una intervista al ministro Franceschini che ci parla invece dei beni e le attività culturali e appunto annuncia le misure in arrivo per i beni culturali, per una gestione diversa, più redditizia possibilmente e meno sprecona dal lato della spesa dei nostri beni culturali. L'intervista a Franceschini infatti sta realizzata da Antonello Cherchi, sta nella stessa pagina in cui riferiamo della Spending Review fase 2 al via, si lavora su partecipate, le società partecipate appunto dai comuni e gli acquisti, il meccanismo degli acquisti. Arriva il piano, si salverebbe solo il 10% delle società partecipate, verrebbero escluse le no core, cioè quelle partecipate che si occupano di servizi non essenziali, non funzionali appunto a un ente locale. E poi i costi standard che diventano vincolanti per i servizi pubblici per evitare appunto queste oscillazioni nei meccanismi di acquisto, per cui in una parte di Italia ci sono degli importi molto alti e in un'altra invece degli importi molto molto più bassi. Questo dal Sole 24 Ore di questa mattina. Vi do ancora qualche segnalazione dai giornali in edicola per parlarvi di una inchiesta di un allarme che oggi viene riportato dalla stampa di Torino, ma che in realtà era cominciata con il giornale e anche con Libero, cioè i problemi dei viaggiatori alla stazione di Firenze, alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. Guardie contro ladri, 8 minuti di sfida alla stazione di Firenze, reso conto che ne fa oggi Sandro Cappelletto sulla stampa. Hanno rimesso dei tornelli perché è appunto un punto pericoloso, questa fermata a Santa Maria Novella viene sfruttata dai borseggiatori, da coloro che cercano di sottrarre valigie, portafogli, insomma, e quant'altro di valore possa essere così lasciato senza custodia dai passeggeri. Ripeto, la vicenda era stata segnalata da un'inchiesta nelle settimane scorse da altri giornali, oggi anche la stampa ritorna sulle contromisure. Altri giornali invece che trovate in edicola, come Il Giornale e Libero, si occupano ancora nelle prime pagine la sentenza di Berlusconi, della assoluzione, meglio della sentenza Berlusconi, il giornale che titola con l'ora dei rosiconi. Repubblica, grazie a Berlusconi, il Colle non cambia idea, è un capitolo chiuso, e su questo anche il lungo editoriale di Eugenio Scalfari, significativamente intitolato La sentenza forse è giusta, ma disonora il paese. Così Scalfari, che poi in un lungo articolo nelle pagine interne di Repubblica spiega perché la correttezza giuridica non corrisponde, secondo il suo giudizio, a una correttezza istituzionale e politica. È tutto, grazie e buona domenica.